Tutti convocati di Carlo Genta. Buongiorno, buongiorno dottor Carlo. Addio mia bella Napoli, addio, addio, la tua nave facile, chi mai fermar potrà. Ora Giorginio che vuole inventare un gran pallone per Cagliacon, Gazzapsic, zona tiro, prova il sinistro! Del Napoli, apre così il secondo tempo, lo slovacco porta avanti il Napoli. Secondo te Antonio? Vabbè, io esagero. Dai, 1-3, da dove arriva questa fiducia? 8 giorni in più di condizione atletica nelle gambe, l'ultima mezz'ora del Napoli e la paura dell'Atletico Bilbao dopo il pareggio del Napoli. Ecco il cross dentro a Duriz con il destro, la libertà di agganciare e poi di battere. Rafael ha pareggiato l'Atletica. Pressione di Aduriz, il pasticcio del Napoli, è doppietta per Aduriz, 2-1, un gol regalato. Unai Lopez cerca Aduriz che è partito in posizione di fuorigioco, secondo me non secondo l'arbitro. Attenzione a 3-1 per l'Atletic di Bilbao e il Napoli in pochi minuti ha gettato una grande occasione. Siamo stati tutti delusi e zitti con testa abbassata, perché in momenti così può essere normale, allora ci penseremo domani e domani ne parliamo, adesso non c'è momento. Spiegalo a quei signori lì, noi abbiamo un disperato bisogno, siamo poveretti, abbiamo un disperato bisogno di 3 squadre in Champions League. Poi ci sbattono ci vuole fuori. Ci vuole il pareggio, il 3 pari, se finiamo 4-2 Spagna-Italia è un disastro. Un disastro, come disse un giorno, giorno altro ieri, Filippo Maria Ricci. 800240024 è il vostro numero verde, a capo descritto nella redazione, Roberto Scalzetti in regia. Già vi dico che da lunedì torna Pierluigi Pardo, torniamo nel formato normale, quindi 2 ore dalle 14 alle 16. Mica male, eh? Avviso ai naviganti. È vero anche che i pronostici e i giornali del giorno prima, come disse un giorno a questi microfoni Mino Raiola, sono buoni per lavare i vetri delle macchine o per incartare il pesce, dice qualcun altro. La verità è che per il Napoli è stata una notte da dimenticare in uno stadio fin troppo enfatizzato, al di là della retorica i cori non giocano e gli estratti conto neanche. Il Napoli, molto più costoso e ambizioso dell'Athletic Bilbao, perde senza scuse. E credo che la verità stia scritta nella pagella firmata dal signore di qui sopra, Filippo Maria Ricci, da Bilbao, oggi, Gazzetta dello Sport, allenatore Benitez 4 in pagella. L'uomo che ha vinto una Champions e un'Europa League vede il Napoli andare a casa mestamente, senza lottare e produrre. E la verità è questa, che sta in una frase: in Spagna giocano un altro calcio anche con meno mezzi. Giusto, Filippo? Purtroppo sì. Io ti dico, ieri era scandaloso, al di là del risultato, degli errori, della sculata, perdonatemi il termine, per cui quasi ce la puoi pure fare, vedere giocare il Napoli con una paura, cioè la palla proprio non la volevano, il possesso durava tra un secondo e 3 o 5 secondi, sì. E dall'altra parte, cioè non è che dall'altra parte c'hai Cross, no, Di Maria, Javi, Xabi Alonso. Xabi Alonso che è andato a Bergamo con Ronaldo. No, chi vuoi? No. Balenciaga, Laporte, esatto. I Turraspe. Begnat, cioè allora tutti questi. Allora, se vuoi leggere anche la pagella di Unai Lopez. Aspetta che lo faccio, eh. Unai Lopez, voto 7. Un ragazzino di 18 anni che non ha mai giocato con la prima squadra. Inizia la giocata del terzo gol, esemplare. Cioè, capito che hanno fatto entrare il secondo cambio? Uno che non aveva mai giocato. 18 anni. Questo ha giocato nel juvenile e poi nel Bilbao Athletic, la seconda squadra che gioca, non so se in terza o quarta serie. Ieri è entrato come secondo cambio. Sì. Cioè, allora di che stiamo parlando? No, stiamo parlando del fatto che adesso si strilla al mercato, no? Perché dicono: ah, beh, il Napoli ha sbagliato perché doveva comprare Maradona, doveva investire di più. E adesso come si fa? Adesso fuori la Champions League, una paura fottuta. Bisogna andare al mercato e comprare tutto il possibile, al negozio dei giocattoli. Cioè, allora, l'Atletico Bilbao l'anno scorso è arrivato quarto, aveva un buon giocatore, si chiama Ander Herrera. Normale, niente, è un buon giocatore, basta, neanche va in nazionale, per dire. L'hanno venduto a 37 milioni e non, siccome hanno questa regola autarchica per cui è complicato per loro trovare giocatori da comprare, non hanno comprato nessuno. Hanno comprato Borja Viguera, il centravanti dell'Alaves, sì, Serie B, per 1 milione. Quindi il mercato lo lasciamo stare, no? Cioè, poi io dico, vado avanti. Ho visto giocare l'altro giorno il Cordoba e prima l'Elche, soprattutto sì, il Cordoba, 42 anni che non giocava in Liga, viene al Bernabeu e fa la sua partita, ci prova. Ma tu sei il Napoli, ieri sera, ma io dico, non riuscivano a mettere in croce 3 passaggi. Cioè, perché? Gli altri invece ci provano sempre, poi puoi sbagliare, puoi perdere il pallone, hanno anche rischiato. Sì. Vogliamo, dico, ma il Napoli niente. Sì, ma allora scusami Filippo, Rafa Benitez non è l'allenatore internazionale, non è l'allenatore votato all'Europa, non è l'allenatore che è in grado di valorizzare i giovani, non è l'allenatore che è stato preso anche per tutto questo. In Spagna però è considerato un catenacciaro, ed è spagnolo, e non è italiano, non è Fabio Capello. E qua lo considerano il suo calcio tra l'antiquato e il poco piacevole. Sì. A seconda di quanto sono amici suoi, per cui anche lì è da vedere. Però, in Italia va benissimo. Io, guarda, parlo col Ciolo Simeone, faccio l'intervista, e lui, io dico, guardiamo sulla carta, dico, Napoli non è male, no? Dico, potrebbe addirittura essere favorito, diciamo, no? Lui dice, ma cosa dici? Dice, assolutamente no, perché il valore medio della Liga è super superiore a quello della Serie A, per cui l'Atletico Bilbao ha fatto 70 punti in Liga, dice, non valgono molto di più dei 78 del Napoli in Serie A. Sì. Ed è così, perché comunque andartela a giocare contro il Granada, l'Almeria o l'Elche è più faticoso, perché è gente che gioca a calcio, e questo comunque poi ti allena a giocare a calcio. E da noi non si gioca. Cioè, ieri sera, ma come fa una squadra che deve andare in Champions, che l'anno scorso ha fatto 12 punti nel girone di Champions, sì, a giocare in quel modo senza proporre niente? Cioè, ma questo, perché ti dico, l'Atletico Bilbao arriva quarto, gli vendono il miglior giocatore, uno dei migliori giocatori. Sì. Il Napoli l'anno scorso ha fatto 12 punti, ha fatto una buona Champions, come ha fatto a peggiorare? Che poi non ha perso nessuno. Cioè, io non lo so, guarda, sono rimasto da me di là, che poi meglio che sia successo con l'Athletic, che se lo merita, è una squadra simpatica, una squadra, diciamo, che ci prova, è un modello da elogiare. Però e l'ultima cosa che ieri diceva giustamente mio collega amico Paolo Condò, dice, la Juventus fa uno stadio nuovo, è la Juventus, forse il club più importante d'Italia o uno dei tre più importanti, da quant'è? Da 40.000. L'Atletico Bilbao ce l'ha da 53.000. Sì. Beh, ma sai Filippo, guardandoci intorno alle partite del nostro campionato, uno stadio da 40.000 è la nostra dimensione. Ora non voglio parametrare questo alla dimensione del nostro calcio, però la verità è che in Italia allo stadio non ci va più nessuno. Fra 3 giorni inizia il campionato, andiamo a contare gli spettatori. No, certo, il conto è che l'Atletic l'anno scorso gli mancava una curva, aveva uno stadio mi sembra da 43 o 40, 45 forse, era tutto venduto, tutti abbonati. Sì. Sì. Però guarda quante cose abbiamo messo sul tavolo, perché non giocano i giovani, è perché la gente non va allo stadio, è perché il modello proposto di gioco è scandaloso, si comprano stranieri che adesso anche lì pensano a David Lopez, no? Ma chi è David Lopez? Cioè, gioca anche bene, va bene, è un giovane dell'Espagnol, 25 anni, la carriera era quasi mezza finita, sì, giocava a Huesca. Dico, ma Fausto Rossi, cioè, sì, 23 anni, non ha mai giocato in Serie A. Viene nella Liga, gioca titolare, fa un partito nel Bernabéu, lo so. Appunto, lo so, dico ma perché David Lopez e non Fausto Rossi? Cioè, capito? lasciando stare che della Juve, che magari ovviamente a Napoli non ci può andare, però in generale dico, parlando solo come esempi, cioè, ma dai, dico, a me mi dispiace, io sto all'estero, ma io tipo qualsiasi squadra italiana, cioè, oggi c'è una giornata nera. Facciamo così, lasciamo bollire, sentiamo il traffico e poi torniamo a parlare anche del fatto che pure la magia degli ex Real Madrid sembra finita, Albiol, Caleone e Higuaín ieri uno peggio dell'altro, anche del fatto che oggi ci sono i sorteggi di Champions, lo sappiamo. Presentiamo due squadre, tu avevi detto fosse 4-2 con la Spagna sarebbe una catastrofe, è catastrofe, non riusciamo a vedere la luce in fondo al tunnel, ci piangiamo addosso ogni giorno, la Roma è in quarta fascia e beccherà un girone impossibile, abbiamo due squadre, nessuna delle quali è da corsa per la Champions League, vi bastano questi temi? Può capitare perché abbiamo visto che è capitato, non è normale, ma è così, abbiamo parlato, abbiamo lavorato questa settimana su questa specifico anche sul calcio d'angolo, tutte queste cose, ma abbiamo fatto l'errore, dobbiamo chiaramente continuare a lavorare. Ma come si fa a perdere con l'Atletico Bilbao? Io potevo capire con l'Atletico Madrid, ma Bilbao, cioè Bilbao, no. Sembrano i solari, sembra i solari di Bilbao, lo stampo che non lava via l'abbronzatura, sai quelle robe lì, no. E dai. Ovviamente non era De Laurentiis, ma era Fiorello. De Laurentiis lo sentiremo più tardi quando parlerà. E più tardi, ore 17.30, Monte Carlo, solita location per il sorteggio di Champions League. Filippo? Sì? Filippo Maria Ricci? Sì? Prima fascia, Real, Barcellona, Bayern, Atletico Madrid, Chelsea, Arsenal. E poi due portoghesi, Benfica Porto, seconda Juventus col Borussia Dortmund, Paris Saint Germain, Manchester City, Shakhtar, Zenit, Schalke 04, Basilea. Poi c'è una terza fascia in cui c'è il Liverpool, c'è un'altra spagnola, c'è il Bayer Leverkusen, eccetera. Quarta fascia per la Roma insieme al Monaco. Credo possano essere ragionevolmente le due mine vaganti, no, per chi le incontrerà, perché come quarta forza non sono male. Squadre italiane competitive, zero. Sì, il Monaco bisogna vedere se se ne va Falcao o no, insomma questo è... No, la Roma sicuramente sarà il classico cliente che nessuno vuole, questo sicuramente, il girone, la Roma ha delle possibilità e speriamo che riesca a passare il turno, insomma qualsiasi girone le tocchi, e la Juve, sì, la Juve è un po' la nostra speranza, cosa possiamo ambire? Quarti di finale. Magari un sorteo buono, un quarto, non lo so, qualcosa così, e quattro squadre tedesche, quattro squadre inglesi, quattro squadre spagnole, due squadre italiane, cioè questo è, stiamo andando sempre più giù e soprattutto non si vede un cambio di rotta, cioè questo non è che dici però abbiamo, no, adesso all'orizzonte c'è qualcosa di positivo, noi, cioè, ma quest'anno abbiamo comprato, sì, Filippo, sempre, però ho anche l'impressione che le squadre italiane, al di là del fatto che sono depresse e deprimenti, abbiano anche perso gran parte della loro autostima, cioè sì, non si sentono quando vanno a giocare in Europa, cioè la fanno nelle mutande. Questa è la mia impressione, cioè ma non hanno più... non si allenano, non è allenante, chi l'ha detto? Capello l'anno scorso, c'ha ragione, cioè in Italia non è, tu pensi di essere, cioè il Napoli, cioè, sono anni che in Italia fa bene, ieri sera, cioè non è, appunto non stava sfidando il Barcellona di Neymar, Messi e Suarez, cioè l'Atleti Bilbao, e avevano paura. Cioè, quelli gli hanno messo un ragazzino che non ha mai giocato una partita in prima squadra. Cioè, ma te lo devi mangiare o no? Sì, ma il problema è che sai, da quelle parti hanno, come sottolinea un ascoltatore via SMS, vanno allo stadio in 53.000, tutti con la maglietta biancorossa addosso. Se poi vanno a casa, se ne fanno anche una ragione. Ma chiaro! Qui in Italia diventa un problema anche gestire Insigne, che è napoletano, ha chiesto l'aumento dell'ingaggio e gli hanno fatto un mazzo così, l'hanno fischiato. E Benitez ieri che deve metterlo perché deve metterlo. E toglie Amsi, che mette Insigne, che gioca con la paura addosso, insomma diventa uno psicodramma totale. Sì, ma come è stato anche il mondiale, il mondiale è un altro psicodramma, è la stessa cosa, però nel mondiale noi andiamo con Verratti, no? Che è uno che fa la Champions, uno dei pochi nostri che fa la Champions, la seconda partita non la gioca. Cioè, poi dopo noi abbiamo il nazionale, portiamo Paletta, 28 anni, argentino, ma dai, Romulo. Cioè, si è fatto avanti chi? Jonathan lì, Jonathan. Sono anch'io. Cioè, ma dai, cioè, ma tu sei spagnolo ormai. Tu sei spagnolo ormai, lo sanno tutti. Lo so, sì, forse se avete ragione. Ascolta, voi. Ma vince il Real Madrid, vince la come si dice undicesima in spagnolo? La undecima? Ma non lo so, io guarda, però attenzione, magari oggi ormai già è tanto che parliamo, ma realmente c'è qualcosa che non funziona, Di Maria adesso c'è Abbia Alonso, cioè il murinista per eccellenza che va alla corte del Pep, come lo vedi? Cioè, il pretoriano di Mu, lo odiavano al Barcellona. Sì, perché in campo faceva invece di tutto, così tacca, a sorpresa, non ne parlava nessuno. Xabi Alonso ieri, è andato al Barna. Poi qualcosa succede. Oggi ho letto una cosa divertente: dice la miglior rosa di tutti i tempi del mondo, però dal 15 al 27 agosto. Perché poi sono andati via Di Maria e Xabi Alonso. Non lo so, questo Madrid adesso il povero Carletto deve rimettersi al lavoro. Ha trovato la quadratura del cerchio. Ma lui la soluzione la trova. Sì, perché lì ha il problema contrario, no? Cioè lì ha un presidente che gliene prende troppi. Esatto. Lì ha un presidente che gliene prende un paio. Sì, gliene ha venduti un paio giusto perché non ci stavano più dentro lo spogliatoio, sennò doveva rifare lo spogliatoio del Bernabeu. Senti, no. Phil, ti ringrazio, a prestissimo. A voi, ciao Filippo, ciao. Maria Ricci, 800240024, Massimiliano Cristiano. Buongiorno, Massimiliano. Sono Massimiliano, buongiorno. Buongiorno, dica. Io ho sentito ieri il giornalista del Corriere dello Sport che diceva che Napoli avrebbe vinto perché aveva una settimana in più di allenamento nelle gambe, perché gli altri avrebbero avuto paura. L'analisi è perfetta, però la realtà è che l'Athletic Bilbao aveva una settimana in più di allenamento e una forma fisica ancora superiore al Napoli rispetto alla settimana scorsa, e la paura l'aveva il Napoli. No, ma poi c'è anche da dire che insomma, e quindi analisi perfetta, solo al che contrario, aveva sbagliato i fattori, certo. Solo e che poi volevo dire, continuiamo a non capire, Massimiliano, continuiamo a non capire. Loro avevano una settimana in più e qualche partita in più nelle gambe. La Liga è già cominciata, il campionato inglese, francese, tedesco hanno già giocato 2-3 giornate. Noi invece dobbiamo ancora partire, subito dopo ci fermiamo. Buoni ultimi come sempre. È una cosa, qualcosa che io faccio davvero fatica a capire, questo coito interrotto dall'inizio della stagione. Io credo che anche questo fattore possa incidere, possa pesare, perché un conto è giocare amichevoli contro chi volete voi da questo o dall'altra parte del mondo, un altro è prepararsi anche mentalmente per un impegno di questo tipo. Sì, tutto vero, inciso. Però il Napoli lo sapeva già da giugno dell'anno scorso che aveva questa partita. Quindi. Poi io ho visto giocare in un torneo giovanile del 2001, Real Madrid, Inter, Juventus, Fiorentina, Torino. Il Real Madrid gioca come le squadre spagnole. Inter, Juventus, Torino hanno dei ragazzi di colore che sono meglio in atletica che a calcio, palla lunga e pedalare. Con questo calcio giovanile non arriveremo da nessuna parte. Ma io sono... cioè, secondo me o insegniamo anche alle giovanili, nel Real Madrid non c'era un ragazzo di colore, nell'Inter questo... ce n'erano 4-5, nel Torino questo... uguali, sì, ma questo tutti poco. Possenti, cioè, sì, tutti però possenti, questo ma a 18 anni questi, Non ne faccio una distinzione di colore e nemmeno, io dico la verità, da questo punto di vista so che sono in netta minoranza, non ne faccio una questione ovviamente di colore, questo mai, non ne faccio nemmeno una questione di passaporto, cioè in un'Europa che è aperta si deve lavorare anche con ragazzi che vengono da ovunque, come fa peraltro il Barcellona, lo ha sempre fatto, ci sono state anche delle, anche in maniera borderline, come sappiamo, la storia di quella sanzione poi normalmente congelata. Certamente, ne faccio una questione di istruttore, di metodologie di lavoro per quanto riguarda i settori giovanili. Napoli per forza. Cristiano, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per l'ospitalità. Dove ha sbagliato il Napoli? Cosa ha sbagliato il Napoli? Io darei comunque una grossa colpa pure al buon Benitez. Sì. Io anche. Perché a tenere Zuniga e Inler in panchina, oltre all'odore delle cessioni, perché non vedo odore di cessioni per loro, cioè, non credo, cioè tu portarli in panchina su uno... abili e arruolabili, a quel punto o mettili in campo oppure non li portare proprio, mettili in tribuna. Sì, però guardi, non ne faccio anche qui una questione di interpreti, Cristiano. Zuniga e Inler magari potevano giocare, più Inler di Zuniga secondo me. Ne faccio una questione di approccio a queste due partite del Napoli, che insomma è stato negativo, cioè secondo me c'è una grande distanza dal punto di vista del talento, dal punto di vista dell'organico e di tutte queste componenti tra il Napoli e l'Atletico Bilbao. Questa distanza è stata azzerata dal modo in cui l'Atletico ha approcciato e giocato queste due partite. Secondo me la verità è questa, e in ciò sta la colpa di Benitez, più che nelle scelte dei giocatori, di questo, di quell'interprete. Secondo me in questo sta la colpa di Benitez. Antonio, buongiorno, lei come la pensa? Da Napoli. Io volevo fare una premessa, il giornalista di prima, il signor Ricci, aveva detto che il calcio... Antonio, mi fa un favore, abbassi la radio per favore, se no non sento nessuno. Ok, grazie. Chiedo scusa. Chiedo dica. Scusa. Un calcio poco propositivo. Io penso che Benitez, che io sono vado contro Benitez, penso che le coppe maggiori siano le sue. Mm. L'anno scorso le partite del Napoli a me mi hanno divertito, non penso che una squadra poco propositiva che giocava con Hamsik, Martens, Calleon e Higuain avanti, anzi forse troppo propositiva. Mm. Poi dicono che il calcio spagnolo lo chiamano difensivista, ma uno come Simeone come lo chiamano? Detto questo, penso che, come dice lei, le coppe maggiori io le do a Benitez, che ha ripescato Gargano, che erano 2-3 anni che Napoli lo buttava di qua e di là, ha mandato via Berami, che era l'unico incontrista decente che c'aveva in Napoli. Il Napoli non ha incontriste, ha preso De Guzman, che è un altro che ha dichiarato lui stesso, ha detto io sono trequartista e non mediano, quindi figuriamoci. Sì. Il Napoli è senza incontristi. È una squadra poco equilibrata. È una squadra poco equilibrata. Le colpe sono di Benitez. Che se il presidente non gli acquista quello che dice lui, prende e se ne va. Altrimenti deve fare qualcosa. Con la stessa squadra dell'anno scorso, come minimo, doveva andare avanti. No, ma certo, ma le colpe sono di Benitez, perché al di là del mercato e, ripeto, della scelta dei singoli giocatori. Perché, ok, lui ha spiegato dopo la partita che Gargano, la prima partita, stava meglio di Inler. Inler è indietro come condizione. Ma mi sembrano tutti un po' dettagli. Non credo che, insomma, Berami ieri sera avrebbe potuto fare la differenza, perché era un Napoli che non esisteva dal punto di vista dell'approccio alla partita. È vero che Benitez l'anno scorso ha fatto un calcio anche molto divertente, e anche e soprattutto per questo motivo l'ho sempre difeso, perché ci divertiamo molto poco a vedere le partite in Italia. Ci sono solo alcune squadre che almeno personalmente mi divertono, una di queste era il Napoli lo scorso anno, l'altra era la Roma. Secondo me la Juventus giocava un gran calcio, il Verona Tratti ha giocato un gran calcio, insomma c'è qualcosa in giro, però il Napoli è sempre stata una squadra poco equilibrata magari, ma divertente. In Spagna, ha detto Filippo Maria Ricci, considerano Benitez un catenacciaro, ma anche qui è una questione di definizioni. La verità è che non ha preparato bene la squadra per un appuntamento estremamente importante come questo doppio confronto di Champions League, che non era irresistibile per nulla, non era per nulla insuperabile. È vero, Napoli poteva anche pescare meglio, non ha una grandissima fortuna nei sorteggi, però ragazzi, andatevi a rileggere la formazione dell'Athletic Bilbao e poi ditemi. No, io credo che abbiamo detto all'inizio che l'Atletico era una squadra tosta, difficile, giocare dopo in trasferta, tutte queste cose hanno successo, lo sappiamo d'inizio, sappiamo che poteva essere così, è stato così, tutti siamo dispiaciuti, ma dobbiamo guardare avanti. No, credo che un analisi obiettivo, il primo tempo, se loro fanno gol, diciamo hanno fatto gol, è meritato. Ma iniziamo il secondo tempo, facciamo gol e dopo gestire la partita abbiamo fatto questi errori che hanno cambiato tutto, perché in pochi minuti abbiamo fatto errori che l'hanno dato a loro. Dopo fare il nostro credo che abbiamo un po' il controllo, e dopo subire abbiamo subito l'altro, e credo che alla fine ha permesso a loro avere più fiducia e per noi era ancora più difficile. Una specie di film dell'orrore, il secondo tempo del Napoli, almeno dal pareggio subito in poi, dal 61esimo, dopo un lampo nel buio con Hamsik. Boris Sollazzo, a proposito di cinema e di Napoli. Ecco, per questo che avete chiamato me, insomma, da critico cinematografico posso apprezzare i film dell'orrore. Sì, hai apprezzato? Neanche un po', Non tantissimo, Devo dire che esco adesso da 15 km in palestra e non so quante vasche a nuoto, e ho capito solo in quel momento che mi sono mosso più di qualsiasi napoletano in campo. Senti, stai sempre dalla parte di Don Raffaele? No, oggi non so, onestamente, non chiamatemi Volta Cabana, non so dalla parte di nessuno, perché mi sembra che quello che abbiamo visto ieri sia qualcosa di molto più pericoloso. Io oggi ho fatto un articolo in cui chiedevo scusa per le posizioni prese in precedenza, che chiaramente era una provocazione, Però è anche vero che questo è il fallimento di un progetto, secondo me è la dimostrazione che questa squadra ha una dimensione che non è quella che il suo presidente ha sostenuto fino adesso. Adesso non voglio togliere come dire la responsabilità a Benitez. Benitez è stato, ieri è stato tradito dagli uomini che ha scelto o che ha accettato, cioè Calleon, Raul Albiol. È stato lui a una radio inglese a dire che Reina guadagnava troppo, quindi come minimo ha fatto il gioco di De Laurentiis. Quindi lui ha sicuramente le sue colpe, perché non è certo Gargano che è stato il migliore in campo all'andata e al ritorno ad averlo tradito. Quindi voglio dire, lui ha tutte le responsabilità possibili, però la verità sì, ma in questa sorta di tradimento c'è anche una responsabilità di Benitez, perché è lui che li allena. Cioè non credo che abbiano litigato in spogliatoio o ci sia qualcosa di perverso. Io credo che ci sia una guerra civile o fredda all'interno dello spogliatoio del Napoli, come dimostra un calciomercato che è assolutamente insensato da qualsiasi parte lo vuoi vedere, da quello dei bilanci, da quello di Benitez, da quello di De Laurentiis, ed assomiglia molto al calciomercato in cui se ne andò via Lavezzi ed era l'ultimo anno di Mazzarri. Insomma, mi sembra che ci sia come al solito una separazione a freddo. È successo con Rey, è successo con Mazzarri e succederà anche con Benitez. Il problema è che il Napoli, da quando è tornato con De Laurentiis in Europa, è quando è arrivato all'eliminazione diretta una sola volta è passato con lo Swansea, all'ultimo minuto con Higuain che ha fatto un miracolo. Sì. E se ieri ce la siamo andata a giocare fino al 60esimo è solo perché prima Higuain all'andata e poi anziché ritorno hanno fatto un miracolo. Di sicuro non meritavamo, come non meritavamo con lo Swansea. Cioè è una squadra che nei momenti decisivi, nei momenti in cui c'è il dentro e fuori, ha sempre fallito. E allora non possiamo dare la colpa agli allenatori, perché o sono tutti incompetenti, Reja, Mazzarri, Benitez, e mi sembra che almeno un paio di questi abbiano dimostrato di essere, ma anche tutti e tre ai loro livelli, abbiano dimostrato di essere grandi allenatori, oppure il problema sta nel manico, sta in una società che non solo non riesce a trovare una sua dimensione, ma che non ha il coraggio di dirlo, perché non ci sarebbe nessun problema se De Laurentiis dicesse: quest'anno io potevo al massimo tenermi i campioni che abbiamo, non posso fare investimenti perché voglio comprare lo stadio. Beh, però Boris, al di là degli investimenti, è chiaro che adesso diciamo queste cose, che i tifosi napoletani dicono queste cose: bisognava comprare qualcuno prima, rinforzare la squadra, eccetera, eccetera, invece di aspettare di avere i soldi in tasca, il risultato magari acquisito. Insomma, si guarda al negozio dei giocattoli. Io guardo al campo e mi sembra questo Napoli, dal punto di vista dell'organico così com'è, sia nettamente superiore rispetto alla squadra dell'Orgoglio Basco. Io non credo, nel senso, sì, sicuramente parliamo dell'Atletico di Bilbao, si è visto tutte le volte che è andato in difficoltà. Tra l'altro Valverde ieri è stata proprio la fotografia dell'incredulità, perché il Bilbao non ha neanche reagito e si è trovato sopra 3-1. Cioè Valverde era davvero incredulo quando ha subito il gol di Hamsik, aveva la faccia di chi ha detto vabbè siamo fuori. Quando ha visto il secondo gol non credeva ai suoi occhi, perché il Bilbao non aveva fatto niente nemmeno per riuscire a rimontare, quindi abbiamo fatto tutto noi. Però detto questo, per l'Atletico Bilbao entra e segna Ibai Gomez, 18 anni. Noi sono anni che sentiamo parlare di scugnizzeria, chi è uscito insegna, con tutto il bene che gli voglio, quel poco che sa fare gliel'ha insegnato Zeman, non gliel'hanno insegnato a Napoli. Sì. E quindi no, a Napoli più che altro gli ha fatto la guerra. Esatto, c'è un problema strutturale, ma anche dei tifosi. Cioè ieri i tifosi avevano tutti la maglia biancorossa, avevano riempito uno stadio meraviglioso, noi abbiamo uno stadio fatiscente in cui i tifosi si scontrano tra papponisti e aureliani e si dimenticano di tifare per la squadra. Ieri sull'1-0 per un quarto d'ora i bilbaini hanno fatto l'ira di Dio. Quando ci siamo trovati sotto noi 1-0 al San Paolo era il silenzio. Bisogna smettere di raccontarci tante piccole bugie. Il fatto che il pubblico napoletano è il 12° uomo in campo non è più vero. Il fatto che De Laurentiis le azzecca tutte non è più vero. Il fatto che Benitez sia il mago che può tirare fuori il coniglio dal cilindro non è più vero. C'è un problema, ma il problema secondo me è un problema di chiarezza, perché questa squadra 10 anni fa era fallita. Sì. Fino a 7 anni fa era in Serie C. Nessuno pretende che diventi il Real Madrid. L'importante è che però nemmeno dicano è da scudetto, non dicano abbiamo 6 centrocampisti in lista, faremo 3 acquisti prima del preliminare, non dica Benitez compreremo 2 pezzi da 90 appena finito lo scorso campionato, e poi ieri non ha il coraggio di fare quello che avrebbe dovuto fare, cioè quello che aveva fatto con Moratti dopo la Coppa Intercontinentale. Cioè, mi sembra che nessuno abbia avuto il coraggio ieri di prendersi la propria responsabilità, perché il napoletano è anche abituato a perdere, sì, ma non è abituato a essere preso in giro così. Grazie Boris, a presto. Grazie a voi, a presto. Bollente Boris Sollazzo, come tutti i tifosi napoletani. 800 24 00 24, torno a parlare con gli ascoltatori regalandomi una suggestione. Oggi è il 28 agosto 2010, sbarcava a Milano Zlatan Ibrahimovic, ultimo grande colpo in chiusura di mercato del Milan. Poi ne sono arrivati altri, perché questa è una consuetudine, stiamo ad aspettare le ultime ore del mercato lunedì per vedere chi sbarcherà a Milano. Nel 2011 arrivarono però con lo scritto sulle maglie, quindi non c'era bisogno del colpo di teatro. Arrivarono Aquilani e Nocerino per la famosa cifra di 500.000 euro dal Palermo. Nel 2012 De Jong, Bojan e Niang, e nel 2013 il colpo fu Riccardino Kakà. Quest'anno vediamo. Stavo leggendo anche una, durante la borsa, per la verità, gli estratti di una terrificante intervista rilasciata da Battistuta a un'emittente televisiva, TYC Sports, dove racconta che cosa gli è successo dopo che ha smesso di giocare. E dice: nel giro di poco tempo praticamente mi sono trovato nell'incapacità di camminare. Non riuscivo più ad alzarmi dal letto, vidi Pistorius e pensai che quella era la soluzione. Amputarmi le gambe. Ce l'abbiamo? Sentiamo. E mi fui al dottore Avanzi, e llegué ahí e dije: por favor, cortami las piernas. Y me miró diciendo: pues estás loco. Digo: no, cortame las piernas, no puedo más, estoy malhumorado. Sentivo tanto male che non riuscivo ad alzarmi dal letto, mi urinavo addosso, il dolore alle caviglie era insopportabile, a tal punto che chiesi al mio dottore di tagliarmi le gambe. Il medico non volle, mi disse che ero pazzo, mi operò la caviglia destra, ma la situazione non migliorò. Il mio problema è che non ho più cartilagini e tendini, i miei 86 kg poggiano sulle ossa e questo mi faceva morire dal male. Poi piano piano la situazione è migliorata, adesso sto meglio, ho ricominciato a camminare, ma ci è voluto molto tempo. Roba da brividi. Luca, buongiorno. Salve, salve, io ho pensato invece che basterebbe dire alle persone che le italiane snobbano la Champions League invece di dire che il Napoli è inferiore. No, per anni gli abbiamo detto alle persone che le squadre italiane, quando venivano eliminate da squadre che si reputavano sulla carta inferiori, snobbavano l'Europa League, no? Adesso se andiamo a vedere questi centri, mi sa che andiamo meglio in Europa League di quando non andiamo in Champions League, no? Abbiamo iniziato a fare risultati penosi quando ci hanno tolto la quarta squadra, no? Addirittura le tedesche, noi abbiamo anche portato una proposta di separazione dei coefficienti con Gagliani, non so se lei si ricorda questo. No. Abbiamo portato una proposta di separazione dei coefficienti tra Europa League e Champions League, pensi lei? Purtroppo da quando invece abbiamo tre squadre, pensi lei, le tedesche vanno alla grandissima. Dai, ieri si è qualificato, sì, il Bayer Leverkusen, che ha anche battuto il Copenhagen, pensi, la Juventus non c'era riuscita a vincere a Copenhagen, sì, il Leverkusen. Normale, quando c'è, cioè, il Bayer Leverkusen è più forte del Copenhagen, è normale che passi. L'anomalia sta nell'eliminazione del Napoli, nella Juventus. No, ma non possiamo dire, però Luca, non possiamo dire italiane snobano la Champions League, questa è una forzatura e un controsenso. Per anni hanno snobbato l'Europa League e lì adesso ci facciamo un sacco di menate con la storia, tornando a parlare della storia del ranking UEFA. In realtà non sposta moltissimo l'eliminazione del Napoli, sposterà molto invece il comportamento per il ranking UEFA penoso italiano, il comportamento delle squadre in Europa League, perché è quello che ci ha comunque affossato. La Champions League in questo momento è un mare troppo profondo per le squadre italiane, questo per molte ragioni, su tutta quella di investimenti che non sono più all'altezza del passato, è inutile starli a girarci intorno. Ciro, buongiorno. Senta, io invece darei la mia opinione in merito al Napoli, chiaramente sono tifoso. Allora, il Napoli l'anno scorso con gli stessi elementi avrebbe, secondo me, battuto, come ha battuto il Borussia Dortmund, avrebbe battuto anche l'Atletico Bilbao. Abbiamo perso Reina, Fernandez, Berami. L'abbiamo venduti, l'abbiamo regalati, forse anche fin troppo velocemente. L'abbiamo sostituiti con giocatori che non hanno esperienza, magari anche forse in prospettiva, Koulibaly, Rafael, e chissà chi a centrocampo, Bergamo. Il problema è che noi abbiamo l'unico presidente in Italia che ha uno stipendio. Lui si dà uno stipendio a lui, alla moglie e a un figlio, al figlio, che hanno un incarico in società. E noi abbiamo in realtà gente alla Marino che magari ci prepara la squadra e ce la mette in condizione di affrontare l'impegno più importante della stagione. Sì. Anche perché un De Guzman, se noi dobbiamo spendere sti soldini per De Guzman, spendiamoli magari un mese prima, non a tre giorni dall'impegno, e poi non è pronto perché è arrivato lunedì. Sì, però siamo sempre lì a rimpiangere quelli che non ci sono, quelli che sono andati via o quelli che non ci sono ancora. Lascerei stare la storia della struttura societaria del Napoli, stipendi eccetera eccetera, perché non mi sembra incidente sul punto. Io credo che comunque un Napoli che schiera Caleon, Higuain, Amsic, che schiera questi giocatori, un Napoli che ha la rosa che ha adesso il Napoli, se va fuori contro l'Atletico Bilbao, e qui non cambio pensiero neanche morire, se va fuori con l'Atletico Bilbao, un errore c'è stato, e non credo sia stato non credo che il peccato originale stia nel mercato. Finisce qui la partita tra Italia e Svizzera con il successo azzurro 80-65, un successo che permette alla nazionale di Pianigiani di conquistare il pass per Eurobasket 2015, vincendo il gruppo G, un gruppo caratterizzato dalla presenza dell'Italia, della Svizzera e della Russia. Italia che chiude il girone con 3 vittorie e una sconfitta davanti alla Russia. Vorrei traghettarvi dall'azzurro del Napoli a un altro tipo di azzurro, a un altro tipo di pallone, quello a spicchi, perché nella serata in cui il Napoli ha affondato c'è stata l'Italia del basket che ha conquistato il risultato minimo, secondo me, cioè la qualificazione agli europei del 2015. Flavio Vanetti, inviato del Corriere della Sera, ciao! Ciao, ciao a tutti! Non è caso di fare la ola, no? Missione compiuta, ma vabbè, aspettiamo il prossimo passo. Sì, la ola è chiaro che non è il caso di farla, soprattutto proprio per la vittoria contro una squadra sicuramente di caratura molto inferiore a quella della Svizzera. Diciamo che può essere fatta pensando al percorso d'inizio di questa nazionale, ma il percorso che risale addirittura al 2010, cioè sicuramente anche quest'estate comunque ha aggiunto un qualcosa in termini di crescita del gruppo, della mentalità. Certo, c'è quella macchia della sconfitta in casa contro la Russia, ma io posso anche pensare che sia un po' il risultato, a parte di uno sbandamento proprio tecnico di 5 minuti veramente sì, giocati malissimo, anche forse il risultato di una stagione estiva di lavoro duro, forse anche un po' troppo in funzione di quello che era l'impegno a breve. E Pianigiani si è difeso sostenendo che queste situazioni servono comunque a creare una mentalità e anche a preparare a qualcosa di ben più difficile che ci aspetta, cioè sì, l'europeo dell'anno prossimo, che qualifica poi i giochi. Guarda Flavio, secondo me il macro risultato ottenuto da Pianigiani, comprendendo come hai fatto tu l'europeo dell'anno scorso per arrivare a queste qualificazioni, è che ha costruito una squadra che al momento non si perde più in un bicchiere d'acqua, cioè che il suo compito quando deve farlo riesce a portarlo a termine, al di là dei 5 minuti di sbandamento con la Russia. Però quando giochiamo con avversarie che possiamo battere, alla fine riusciamo a centrare l'obiettivo. Sì, è una squadra che comunque sta sempre in partita, e l'ha dimostrato a Mosca quando la partita sembrava proprio persa, avevamo sotto 10, quindi c'erano anche tutte le condizioni addirittura per prendere una bella legnata, invece la squadra ha tenuto, è risalita e alla fine ha vinto. E sotto questo aspetto quindi anche l'incidente di Cagliari rientra, come dire, in una logica secondo me occasionale. È sicuramente vero che questa è una squadra che ha saputo come dire, darsi un'identità. Ieri il CT ha parlato di abito azzurro che ormai ci si è cucito addosso, e non dimentichiamoci che comunque è un gruppo che ancora risente di tante defezioni, quindi non è automatico che inserendo tutti quelli della NBA o anche recuperando i Melli, non so, Hackett, penso che per Hackett il discorso sia ormai terminato in azzurro, comunque recuperando il meglio della rosa automaticamente ci sia una crescita, e sicuramente ci sarà una maggiore scelta, per cui sì, ci si potranno anche spalmare meglio le rotazioni, si potrà far respirare la squadra, si potrà, secondo me, in un arco di un torneo come l'europeo, che è piuttosto lungo e complicato, partire piuttosto forte, poi poter rallentare e avere la sicurezza di disporre delle forze necessarie per poter giocare alla fine come all'inizio, che è un po' quello che ci è mancato l'anno scorso. Sì, stiamo recuperando comunque ottimismo, anche per la nazionale italiana nei tempi grami si parlava di settori giovanili che non producono, si parlava di discorsi di questo tipo. Io continuo a pensare che questa sia una eccellente generazione di giocatori. Sì, anche perché qua è vero, Piangeli continua a porre l'accento sui problemi di fisico che abbiamo, a volte rendiamo dei chili e dei centimetri agli avversari, però non dimentichiamoci, ad esempio, un giocatore come Gentile nel suo ruolo è veramente una bestia dal punto di vista fisico, un armadio, ed è anche difficile giocare contro lui, quindi non è del tutto vero che siamo così scarsi e messi male. Sicuramente questa è una generazione molto interessante e probabilmente c'è ancora un qualcosa di più che deve venire, e si pensa in particolare all'Europeo 2017 come il punto di maturazione di questo gruppo, e poi comunque alle spalle probabilmente qualcos'altro c'è, anche se, ripeto, Pianigiani ama sempre frenare, ama sempre andare con i passi e dice che non è così, insomma è difficile, però sicuramente c'è un lavoro alle spalle, che è anche quello della ricerca sul territorio dei talenti, insomma, cioè una specie anche di reclutamento che lui sta facendo in prima persona, e credo che questo sia anche un po' la parte oscura del suo lavoro che va valorizzata. Sì, sì, certo, si sta facendo un eccellente lavoro, l'impressione nel settore squadre nazionali in questo momento. Grazie Flavio, buon grazie lavoro. Grazie a voi. Grazie, grazie a Flavio Vanetti. David Brescia, buongiorno. Buongiorno, salve. Io vorrei intervenire riguardo sempre la storia, la comparazione che si fa con le squadre straniere e quelle italiane, di solito sono straniero. Io vengo da altre sport, nel senso che ho sempre fatto baseball, basket, così, non sono culturalmente molto attivo nel calcio, però posso fare solo l'esempio. Diciamo che l'Atletico Bilbao e questa squadra qua vengono fuori con dei progetti. In Italia i progetti durano un minuto, nel senso che vengono fuori Stramaccioni, i Saghi, i Sedors, e alla fine, dopo che perdono due partite che sono fischiate dal pubblico, viene tutto al suolo. Il sistema è questo, lo conosciamo bene, e mi sembra molto difficile cambiare questa mentalità, ed è anche la ragione per cui in Spagna possono permettersi di far giocare quei ragazzini di 18 anni che, come ci ricordava prima Filippo Maria Ricci, non ha mai messo piede in prima squadra, non ha mai giocato la prima squadra, entra in campo in una partita così importante, entra in campo in una partita anche che vale molti soldi, e questo insomma ha un suo peso. In Spagna possono permettersi di fare ragionamenti di questo tipo. In Italia fare ragionamenti di questo tipo diventa invece molto molto complicato, molto difficile anche cambiare questo tipo di mentalità. Sempre a proposito di basket, ve ne racconto un'altra, perché oggi, primo giorno di allenamento a Varese, allenatore Gianmarco Pozzecco ha appeso alla lavagna i suoi 6 comandamenti: rispetta e ami i tuoi compagni, non essere in ritardo, vai fuori quando vuoi ma mai prima di una partita, dimmi tutto, sono qui per aiutarti a realizzare il tuo sogno, e numero 6, divertiti. Massimiliano Ancona, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno a te, grazie per la convocazione. Chi piange? La piccolina. Come si chiama? Si chiama Maria Serena. Ma età? Età, lei, un anno e mezzo. Un anno e mezzo, e come mai piange? No, non lo so, perché il papà si è allontanato un attimo. Perché papà, papà fa il bravo, Assolutamente. Prenditi cura della bimba. Dimmi. Assolutamente. Napoli Atletico Bilbao, ora io non ho la radio, immagino argomento dibattuto. Sì. E io onestamente ho visto la partita e l'impressione mia è stata che il Napoli, cosa che tra l'altro è una cosa di cui pensavo già da prima, non è assolutamente una grande squadra, obiettivamente. Perché è vero che l'Atletico Bilbao non ha i grandi nomi. Però il Napoli grandi nomi ha Higuain, che infatti ha giocato bene, e poco più, cioè la difesa è imbarazzante. Sì, l'Atletico Bilbao c'ha giovani, cioè il ragazzo che è entrato, Lopez, che ha 18 anni, è entrato a mezz'ora del secondo tempo, abbiamo quello che ha fatto, un colpo di tacco al volo che mandava in porta il centravanti, sì, per un pelo. E lo so, quindi, capito, dire, però Massimiliano, intendiamoci su quali sono, le grandi squadre, mi hai detto prima, il Napoli non è una grande squadra, intendiamoci sulla dimensione, cioè non è una squadra che può vincere la Champions, certamente, secondo me non è nemmeno una squadra che può vincere lo Scudetto. Però è anche vero che è una squadra che tutto sommato ha dei giocatori di respiro internazionale. È una squadra che con questi giocatori l'anno scorso, in un girone estremamente difficile, fece una splendida stagione europea, andando fuori con 12 punti in classifica, cosa quantomeno inusuale. È una squadra e in parte una rosa che con Mazzari fece un altro eccellente cammino europeo, quindi intendiamoci sulla dimensione di grandezza. Io credo che il Napoli sia più forte. È chiaro che è un discorso, puoi metterti lì a mettere sulla bilancia i giocatori, però il Napoli è più forte dal punto di vista dell'organico, del talento e tutte queste cose rispetto all'Atletico Bilbao, quindi continuo a pensare che siano stati degli errori nell'approcciare questo impegno, questo è ciò che penso, e degli errori che non riguardano tanto il mercato quanto il lavoro che è stato fatto per affrontare questo doppio impegno, ed è stata una cosa anche abbastanza sorprendente proprio per la ragione di qui sopra, proprio perché il Napoli è questa stessa squadra, perché togliamo Reina, mettiamo Rafa, certamente il Napoli ci ha rimesso, via Berami, eccetera eccetera, però l'ossatura è quella, questa stessa squadra l'anno scorso in Europa fece benissimo, dunque sono rimasto stupito dal modo in cui il Napoli è finito fuori dalla Champions League. Tanto stasera vediamo i sorteggi, 5:30 preparatevi, con la Juventus in seconda fascia, la Roma in quarta fascia. Stasera giocano l'Inter e il Torino in Europa League, in cui finirà anche il Napoli. Io credo che insomma Napoli ed Inter dovranno cercare, mi auguro in maniera molto decisa, che Inter e Napoli possano affrontare l'Europa League come si deve, in maniera molto seria. Spero che questa speranza non cada nel vuoto. Tanto, ultima notizia prima di chiudere: Pirlo fuori un mese, distrazione della funzione muscolo-tendinea del retto femorale, 30 giorni per il completo recupero funzionale, dunque Juventus che inizierà la stagione italiana ed europea senza Andrea Pirlo. Roberto Scaltritti in regia, Claudio Schiattone in redazione, ci sentiamo domani alle 2, ciao. Se avete domande, se no me ne vado a far culo.